Salva Danaio di Deborah Rosciani. Io sono arrivata a pensare che il contatore, quello installato elettronico, c'ha qualche truffa dentro. E allora, buongiorno da Deborah Rosciani. Che le bollette di luce e gas siano incomprensibili lo sappiamo tutti, tra conteggio dei consumi, letture ed autoletture, fasce di consumo, IVA e tasse, chi più ne ha più ne metta. Ma a tutto questo aggiungiamo anche bollette che non arrivano per lunghi periodi, cifre che non sembrano corrispondere ai consumi effettivi e che a volte sono addirittura da capogiro per una famiglia normale, un'utenza normale, difficoltà nelle procedure di voltura e di passaggio al mercato libero, ma anche contratti che si scopre di aver sottoscritto solo al momento in cui la bolletta arriva a casa. Sono tanti i disagi e i disservizi segnalati dai cittadini italiani relativamente alle forniture e ai gestori di luce e gas. E nel mese di ottobre, lo ricorderete bene, ci siamo dedicati con due puntate al caso emblematico di Acea, l'azienda che gestisce le utenze di Roma. Nella capitale, la utility romana è stata al centro per mesi di feroci polemiche per una serie di disservizi scaturiti dalla riorganizzazione interna dei servizi informatici di lettura e fatturazione dei consumi. Ma le zone d'Italia coinvolte sono tante e altrettante le aziende. Disagi come questi mettono molto in allarme i consumatori, spaventati dalla possibilità che costi imprevisti e spesso ingiustificati, perché non sostenuti, vadano a mettere in crisi l'equilibrio del bilancio familiare, spesso già delicato in questo periodo più che mai. E soprattutto il tema è che non ci si riesce a difendere molto spesso da queste situazioni, nonostante anche le iniziative di autoregolamentazione che molte aziende hanno messo in campo e nonostante le iniziative di persuasione molto forte che l'autorità del gas e dell'energia ha fatto nei confronti delle aziende. Allora, noi oggi ritorniamo a parlarne per fare in modo che tutte le persone che magari si trovano coinvolte in queste situazioni possano individuare la ricetta giusta per risolvere queste situazioni, appunto, prima di Natale, in modo da poter passare il Natale con una certa serenità. Noi oggi torniamo a parlarne intanto con l'amministratore delegato di Acea, Antonello Giunta, che torna di nuovo con noi per rispondere alle domande degli ascoltatori e soprattutto per farci il punto della situazione rispetto a quello che è successo nel mese di novembre, che è stato un mese cruciale, visto che ad ottobre ci eravamo dati alcuni impegni che entro novembre si dovevano appunto rispettare. Noi oggi appunto con lui, come promesso, rifacciamo un po' lo stato dell'arte. Dottor Giunta, buongiorno e bentornata a Salva Danaio, benvenuto. Grazie, ci sente, a tutti gli ascoltatori. Però vi ricordo anche, anticipo ai nostri ascoltatori, che nella seconda parte di Salva Danaio parleremo anche di un'altra iniziativa, perché due importanti operatori nel mercato libero, Edison e Sorgenia, hanno sottoscritto un protocollo di autoregolazione volontaria per contrastare il fenomeno delle attivazioni e dei contratti non richiesti di forniture di energia elettrica e di gas naturale. Scopriremo come funziona, come stanno applicando questo codice, un'iniziativa singolare perché in qualche maniera come se le aziende riconoscessero le loro responsabilità in questi comportamenti e naturalmente corrono ai ripari per offrire il miglior servizio possibile ai cittadini molto arrabbiati su questo versante. Quindi ci collegheremo dopo proprio con il direttore generale di Sorgenia, che è Riccardo Bani. Chiaramente vogliamo ancora una volta anche oggi raccogliere le vostre testimonianze all'800240024. Se volete intervenire in diretta ci potete anche scrivere al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it o su Facebook salvadanaio-radio24. Prima però dei disservizi nei contratti di luce e gas, la borsa. La borsa che oggi ha avuto una doppia faccia, perché è partita molto bene, si mantiene positiva in tutta Europa, non è così invece a Milano, che scende dello 0,37% sul FTSE MIB, Parigi più 0,36%, Francoforte in rialzo di un punto, Londra più 0,21%. Oggi abbiamo la riunione della Banca Centrale Europea, non si decide nulla sui tassi di interesse, ma sentiremo un po' lo stato dell'arte sull'economia dell'Eurozona da parte di Mario Draghi, presidente della BCE. Tiene banco a Piazza Affari il caso SAI, IPEM, che perde il 7%, ma in avvio è arrivata a perdere il 14%. Il gruppo ha comunicato ieri sera una vera e propria rivoluzione ai vertici, ha dato le sue dimissioni il vicepresidente e CEO Pietro Franco Tali, è stato sospeso in via cautelare un altro dirigente, Pietro Varone, e questo perché? Perché c'è un'indagine avviata dalla Procura di Milano su presunti reati di corruzione relativi ad alcuni contratti stipulati in Algeria. Peraltro questa vicenda ha portato anche alle dimissioni del direttore finanziario dell'ENI, Alessandro Bernini, che all'epoca dei fatti, che si sarebbero consumati prima del 2009, svolgeva lo stesso ruolo in Saipem. Ma adesso il titolo fa meno 7, ma va male anche, visto che oggi parliamo di utility, A2A, Menune 85, Telecom, Menune 53, Prismian in ribasso di un punto. Segno più invece su Mediaset, più 2,75%, Tenaris più 1,20, Ansaldo in rialzo di un punto. Lo spread torna a salire, siamo arrivati di nuovo a 317 punti base questa mattina e il mercato attribuisce questo rialzo anche alle vicende politiche italiane, forse alla appunto preannunciata volontà di ritornare in campo da parte di Silvio Berlusconi e poi il PDL appunto che non voleva votare la fiducia al Senato sul DL sviluppo, la Finocchiaro del PD che ha detto: e allora se il PDL fa questo Monti deve presentarsi in Quirinale. Tutta questa rinnovata questa fibrillazione ha riportato appunto un po' di tensione sul mercato dei titoli di Stato. Se le ragioni sono queste non sappiamo bene, in ogni caso gli operatori stanno sostenendo questo questa mattina. Direi che però la borsa la possiamo lasciare immediatamente e tornare invece al tema di oggi che gli ascoltatori appunto vogliono ascoltare e hanno chiesto appunto anche a noi di Salvadanaio di ritornarci con grande insistenza, perché appunto, come dicevo, riparliamo dei disservizi nei contratti di luce e gas. Il grande clamore, lo ricorderete, suscitato dal caso Acea di Roma. Tra l'altro abbiamo ripescato anche alcuni degli ascoltatori che ci hanno chiamato nelle altre trasmissioni. Rinfreschiamoci un po' la memoria. Acea in pratica non fa letture reali dal contatore, né in telelettura né fisicamente, ormai da anni. Abbiamo cambiato alcuni mesi fa il gestore con l'assicurazione che avrebbero fatto le letture. Anche questo letture e anche questo gestore ci dice che dipende da Acea e arrivano letture stratosferiche. Mi sono accorto che io ero passato senza saperlo ad un contratto con Acea Mercato Libero, chiaramente analizzando questa bolletta a luglio di quest'anno da 2.500 euro, tenendo conto che i precedenti pagamenti erano tutti regolari. Allora, una volta ogni kilowattore erano 400 giri, bene, non ho capito, fascia 1 quanto costa il kilowattore, fascia 2 quanto costa, ci mandate delle bollette, pagine e pagine parlando dell'IVA, dovete mandarci a dire esattamente ogni kilowattore quanto consuma, fascia 1 quanto costa, fascia 2 quanto costa, fascia 3 quanto costa, perché io riscaldo a bagno, l'accendo verso le 3 del mattino quando mi sveglio, l'accendo un paio di ore, lavatrice faccio sempre a freddo, una volta ogni 2 settimane. E allora ci sono chiaramente delle circostanze legate all'incomprensione della bolletta che non sono da attribuire in via esclusiva alle aziende che ci forniscono luce e gas, perché anche loro ottemperano chiaramente alla normativa. Ci sono invece altre circostanze per le quali ci possiamo arrabbiare un po' di più. Dottor Giunta, la situazione è un po' più tranquilla rispetto ad ottobre a Roma, oppure ancora avete qualche difficoltà e molti reclami da parte degli utenti della capitale? Direi che assolutamente rispetto a quando ci siamo sentiti l'ultima volta, le cose sono ovviamente hanno intrapreso una strada che è quella del miglioramento. E soprattutto anche legato al fatto di tutte le azioni che abbiamo messo in campo, che sono anche quelle che vi avevo annunciato nel mese di ottobre. In primo luogo la parte relativa al rilascio dell'autolettura, che come le avevo detto a suo tempo, nel mese di novembre lo abbiamo rilasciato sia lato call center che il lato sportello. Perché il problema, magari lo ricordiamo, dottor Giunta, il problema è che in quel periodo gli utenti di Roma, forse qualcuno sta capitando ancora, ricevono delle fatture di acconto che contestano perché magari sono troppo alte. Allora loro dicono: io vi faccio la mia autolettura, vi do la dimostrazione che i consumi che l'azienda presume non sono uguali a quelli effettivi, pertanto la bolletta dovrebbe essere più leggera. Dal 1 novembre tutti i clienti che ricevono delle fatture, avevate promesso in acconto, potranno rilasciare l'autolettura. Quindi il procedimento è partito dal 1 novembre. Il procedimento è partito sia per il call center che per lo sportello. Come si ricorderà, avevo anche dato apertura agli altri canali di contatto che noi abbiamo. Infatti nel mese di dicembre, entro la fine del mese di dicembre, noi rilasceremo anche la possibilità di farlo via web e via IVAR, sempre nel corso del mese di dicembre. Quindi tutto questo permetterà al cliente, qualora, come lei ha già citato, che riceva una fattura in acconto, rilasciando l'autolettura, di allineare i suoi consumi e quindi anche ciò che andrà a pagare esattamente con quello che realmente ha consumato. Rimane in sospeso, dottor Giunta, lei ricorderà anche il caso che le avevo segnalato, perché è un caso vicino a me, di un collega di Radio 24, l'assistente, l'autore del programma di Gianluca Nicoletti, appunto Fabrizio Intonti, che è risalito al fatto di aver presumibilmente, lui non si ricorda bene la circostanza, firmato un contratto per il passaggio al mercato libero, e pur avendo magari dimostrato anche l'azienda che questo passaggio c'era stato, lui ha riconosciuto una firma su un contratto. Il punto è che la sua situazione non è risolta, perché comunque l'azienda ha inviato a questo utente, nostro amico, due bollette, da una 2.500 euro, una da 1.600 euro. Il punto è impossibile che io abbia sostenuto questi consumi, e non capisco come posso, perché non riesco appunto a sanare la mia situazione. L'azienda dice che sono regolari e lui si domanda: regolari in che senso? Legale, commerciale? Nemmeno un palazzo intero consumerebbe tanto. Credo che l'azienda abbia promesso una sorta di indennizzo a Fabrizio, come a casi appunto di questo tipo, ma come lo si può richiedere? Soprattutto, come fa a difendersi appunto un utente da una situazione estrema come questa? Allora, è chiaro che tutto ciò che fa riferimento a una situazione dove il cliente reclama evidentemente a suo avviso una situazione che non ritiene sia in linea con i reali consumi, e quindi di questo stiamo parlando, ci sono tutti i canali di contatto, quindi sia il call center in primis, lo sportello, ma se questo non dovesse essere esaustiva come risposta verso il cliente alle informazioni che riceve di ritorno, può inoltrare un reclamo alla nostra casella postale, dove indica quelle che sono esattamente le dimostranze e anche i rilievi che lui lamenta. A tal proposito, ci sono appunto dei tempi che sono regolati dall'autorità, entro i quali la società è tenuta a rispondere al cliente. Superati questi tempi, ecco, se il cliente non dovesse ricevere una risposta entro questi tempi, vengono erogati degli indennizzi a favore del cliente, appunto al ristoro della situazione che si è creata. Come li quantificate questi indennizzi, dottor Giunta? Perché chiaramente dovrebbe essere quantificato con esattezza il consumo e quindi la relativa fatturazione. Siccome questa ci sembra anche abbastanza improbabile, poi chiaro è da dimostrare, ma io non ho nessun motivo di dubitare che Fabrizio abbia sostenuto spese più alte delle bollette normali che paga. Lui dice, insomma, cioè, al massimo posso pagare 90 euro a bimestre. Come si quantifica l'indennizzo? È evidente che di fronte a una situazione come quella che lei ha descritto, se c'è un palese errore così evidente, cioè da 60, 90 euro a migliaia di euro, è evidente che c'è un errore, e quindi devono essere assolutamente riemesse le fatture con i reali consumi. Quindi l'autolettura in tutto questo faciliterebbe senz'altro il processo di allineamento dei reali consumi del cliente. Comunque gli indennizzi variano a seconda della gravità, tra virgolette, dell'operazione, e anche in termini, anche quali sono i tempi di rilascio della risposta, da un minimo di 20 euro fino a un massimo di 60 euro. Marco, puoi sentire Fabrizio per capire se ha inviato l'autolettura, in modo che l'azienda possa fare un confronto fra i consumi che ha fatturato in via presunta appunto al nostro utente amico e appunto quelli che effettivamente invece ha effettuato? Noi abbiamo già la prima pausa, magari riesco a sentire Silvia da Roma, che dice Matteo, sia il nostro tecnico di questa mattina. Silvia, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei in che situazione si trova? Guardi, è complesso, cercherò di essere molto sintetica. Noi abbiamo, siamo passati da tutela, maggior tutela al libero mercato CEA. Quindi voi l'avete 2012. Fatto intanto in maniera volontaria e consapevole questo passaggio, perché anche lì poi qualche volta ci sono... Sì, diciamo consapevole, volontaria, sì. E il problema è stato che già c'erano molte difficoltà, era impossibile da 4 anni circa dare l'autovettura del contatore. Ad agosto mi è arrivata la fattura di conguaglio di ACEA maggior tutela, in cui c'è stata una lettura del contatore fasulla, falsa. Dai miei conti risultano circa 7.000 kW addebitati in più. Quindi io ho provato prima, come dice la fattura, a provare col call center, mi hanno gentilmente detto che era inutile chiamarli, tanto non si prendeva nessuna segnalazione. È quindi vero, per un periodo lo hanno fatto, l'abbiamo raccontato. Però vorrei dire che sulla bolletta c'è scritto che i reclami si possono fare anche telefonicamente, questa è un'informazione non veritiera. Secondo poi il 4 ottobre è stato un reclamo scritto molto dettagliato, questo problema mi crea molti danni, perché successivamente sono passato ad altro operatore e non si riesce a fare passaggio. Non si riesce proprio a leggere i consumi perché sono incongruenti ovviamente. E dal 4 ottobre non ho avuto nessuna risposta, ho rimandato un'altra raccomandata e l'unica risposta che ho avuto allo sportello, protocollato quindi con il mio reclamo, è stato un sogghigno del tipo: vabbè, tanto evidentemente se le hanno prelevato già i soldi evidentemente ce l'aveva, quindi non ha problemi. Vorrei dire che questi adesso Giunta mi promette che va a pescare questo operatore che dà queste risposte divertenti. Silvia, lei quindi adesso in che situazione si trova? È regolare con i pagamenti, anche se ritiene di aver pagato molto di più? Scusi, aggiungerei il danno altra beffa, nel senso che la bolletta di conguaglio aveva 200 rotti euro a credito, quindi che di agosto, a tutt'oggi non mi sono ancora stati rimborsati. Quindi non solo io sono a credito di circa 2.000 rotti euro, perché nel 2000. Corso degli anni... Eh sì, 7.000 kilowatt, se lei fa il calcolo, sono circa questi soldi qui. Che spero che li abbia pagati gradualmente, almeno che non sia arrivato tutto un prelievo. Sì, nel corso di 5 anni sono stati prelevati su letture presunte e mai verificate. E tutto questo col contatore, quella telelettura. Per cui, perché ACEA subisce un costo di mettere questi contatori che poi non funzionano? Fatture di 300 euro, 500, 924. Certo. Alla fine sono andata giù agli uffici per capire questa cosa. Quando io vado alla CEA Roma, agli uffici della CEA Roma, e vedo dei poveri pensionati che non hanno la possibilità di pagare perché hanno le pensioni basse e non riescono a venire ad una soluzione di queste fatture alte che arrivano, ma è possibile che nessuno prende l'iniziativa, il blocco di questa situazione? E questa era un'ascoltatrice di cui avevamo raccolto la testimonianza nella puntata di ottobre, che appunto si lamentava della questione di ACEA, sulla quale stamattina siamo ritornati per capire qual è lo stato dell'arte, date le promesse che l'amministratore delegato Antonello Giunta ci aveva fatto in ottobre. Alcune iniziative sono state portate avanti in novembre, però come avete sentito anche dal caso di Silvia da Roma, qualche cosa ancora c'è da aggiustare. Dottor Giunta, Silvia ci ha raccontato che ha fatto, su base totalmente volontaria e consapevole, il passaggio al mercato libero, e però ancora l'azienda viaggia su consumi presunti che lei ha quantificato l'hanno portata a pagare in più oltre 2.000 euro negli ultimi 5 anni. Ma quando potrà Silvia sanare la sua situazione? A quanto pare non riesce appunto a fornirvi la lettura definitiva dei suoi consumi. Ma credo che la ex cliente, arrivato a questo punto, sì, visto che mi sembra aver capito che anche questo passaggio sia cambiato anche operatore. Parlava di un periodo che era agosto, quindi immagino che a quell'epoca ancora l'autolettura non l'avevamo rilasciata e quindi di conseguenza tutto ciò che fa riferimento a dei tempi che sono successivi a novembre, questo deve essere immediatamente ripristinato. Laddove lei avesse ricevuto nel corso del tempo, quindi con queste fatture, tutte letture che erano in acconto, è evidente che con l'autolettura si può ripristinare l'esatto consumo del cliente. Si può... Per quanto riguarda invece l'aspetto legato al rimborso, la società effettua una verifica puntuale di quelli che sono le partite a debito e a credito, e qualora non dovessero esserci delle partite a debito da parte del cliente nei confronti della società, viene immediatamente ripristinato e avviato il processo di rimborso verso il cliente. Quindi questo è quello che noi facciamo. Ecco, tra l'altro, a proposito del fatto che Silvia ha inviato un reclamo molto articolato, protocollato, per cui ha una data di ricevimento, successivamente alla quale, chiaramente anche perché l'autorità del gas e dell'energia fissa degli standard precisi su come le aziende devono comportarsi per rispondere agli utenti, ecco, entro quanto devo ottenere una risposta a Silvia e se è fuori tempo massimo, quali altre tutele ha la nostra ascoltatrice per farsi ascoltare? Guardi, allora i tempi sono entro 40 giorni tendenzialmente. Che credo siano passati, appunto. I standard previsti dall'autorità sono che entro 40 giorni la società deve rispondere per iscritto al cliente. Superati questi tempi, ripeto, rispetto a quella che è la gravità descritta all'interno del reclamo e anche la modalità di risposta, cioè i tempi di risposta, l'indennizzo è quello che le ho citato poc'anzi, da 20 a 60 euro. Oltre a questo ci sono altri canali ovviamente di ulteriore sfogo o reclamo da parte del cliente, che è quello che recentemente, diciamo nel corso dell'ultimo anno e mezzo, ha messo in piedi l'autorità per l'energia elettrica e il gas, che attraverso lo sportello del consumatore o attraverso tutte le associazioni di consumatori che ovviamente che sono attive su questo processo anche in una forma di dialogo costante con tutte le aziende. Senta, dottor Giunta, l'autorità del gas e dell'energia ha aperto un'istruttoria su Acea per naturalmente cercare di fare luce su quello che è accaduto negli ultimi mesi e che si sta gradualmente, ma ancora con grande difficoltà, tentando di ripristinare sulla capitale, e probabilmente si arriverà anche ad un procedimento sanzionatorio. Che cosa vi ha chiesto di preciso l'autorità appunto del gas e dell'energia? Come state anche rispondendo? So che li incontrerete a breve, entro il 20 dicembre. Allora, il processo è stato avviato lo scorso mese, il processo, c'è una fase istruttoria che è in piedi. Io le posso dire quali sono stati i rilievi che l'autorità ha espresso all'interno di questa delibera, che sono per una parte relativi a quelli che sono, diciamo, gli aspetti legati alla fatturazione in senso generico, e la seconda parte invece è legata agli standard di qualità, quindi alla risposta ai reclami di cui poc'anzi abbiamo parlato. Il processo di comunicazione con l'autorità è in piedi, noi ovviamente le posso solo dare alcune indicazioni su quelli che sono una serie di impegni che noi prenderemo nei confronti dell'autorità, anche a tutela e a sostegno di quelli che sono la cessazione delle condotte lesive, laddove dovessero esserci state delle condotte lesive, e in più un ripristino di tutte quelle azioni, o un avvio di tutte quelle azioni che possono in qualche modo traguardare un miglioramento della customer satisfaction nei confronti dei clienti. Senta, per quello che riguarda invece il passaggio al mercato libero, quando questo non avvenga nella piena consapevolezza da parte dell'utente, perché lo sappiamo che le campagne di marketing e di proposte commerciali sono molto aggressive da parte dell'azienda, tema che affronterò peraltro tra poco con Riccardo Bani, direttore generale di Sorgenia, che peraltro posso anche già salutare. Dottor Bani, buongiorno direttore. Buongiorno a lei e ecco, ai radioascoltatori. Adesso andiamo ai casi di Sorgenia ed Edison e dal vostro protocollo di autoregolazione volontaria, ma volevo concludere col dottor Giunta. La dimostrazione di condotte non propriamente corrette da parte della rete di operatori commerciali ai quali vi affidate per proporre alla clientela appunto il passaggio al mercato libero, una volta che queste venissero dimostrate, voi che cosa fate? Allora, fermo restando che, come lei ha citato, la delibera 153 del 2012, che è partita dallo scorso mese di luglio, ha già fissato dei paletti molto, molto precisi su quelle che sono le azioni che le singole aziende devono mettere in campo a tutela del consumatore. Ogni società, come lei ha poc'anzi citato, sia Edison che Sorgenia, che hanno già avviato questa iniziativa, ma devo aggiungere che ovviamente anche noi siamo fortemente attivi su questo, perché in primis non c'è ombra di dubbio che ogni società ha interesse a tutelare questo processo di migrazione sul mercato libero in maniera del tutto trasparente. Che cosa ha fatto Acenergia, che cosa farà Acenergia, quindi con decorrenza 1 gennaio, oltre a quello che è già previsto all'interno della delibera e che prevede appunto, che è già stato avviato ovviamente da luglio in avanti, e avvierà dei processi di controllo interno, quindi su tutti gli outsourcer, che siano quelli dei classici venditori porta a porta, che quelli invece relativi alle attività di teleselling, dove avvierà delle quality call a conferma oltre all'invio della lettera che è già prevista dalla delibera, confermo o meno che il cliente abbia non solo sottoscritto un contratto, ma che sia consapevole di tutte quelle che sono le indicazioni che sono state inserite appunto all'interno del passaggio dalla tutela al libro, da passaggio dal libro al libro, ecco. Senta, che viene appunto puntualizzato e fermamente precisato al cliente passaggio per passaggio che tutto questo si sia verificato in maniera del tutto trasparente. Intanto per le situazioni ancora aperte come quella del nostro Fabrizio, che è ancora in sospeso queste bollette spaventose, non è che gli staccate il servizio, voi per un periodo avete interrotto niente, le procedure di distacco. Mi ricordo che esatto, sì. Vabbè. Abbiamo non perché è raccomandato da noi, ma naturalmente con tutti. Il processo di verifica del consumo medio sia diverso da quello che ci ha comunicato il distributore, perché bisogna sempre dire che in mezzo a tutta la filiera, così come noi che siamo società di vendita, come tutte le altre, noi fatturiamo in funzione di quelle che sono letture che ci indicano i vari distributori locali, quindi su questo bisogna un po' fare chiarezza, perché ogni società di vendita, di fronte a un dato che viene fatturato e che il cliente ritiene sbagliato, deve comunque interfacciarsi con il distributore stesso per verificare se effettivamente il dato che dice il cliente è diverso rispetto a quello che ha comunicato. È l'inversione dell'onere della prova che ci fa perdere un sacco di tempo e ci fa tanta rabbia. Questo è chiaro, che tutto questo genera ovviamente disagio e soprattutto altera anche un po' il rapporto di fiducia e di soddisfazione che c'è tra la società di vendita e il cliente stesso. Dottor Giunta, mi raccomando, azzeriamo tutte le cause aperte al più presto, poi magari ci risentiamo il prossimo anno, d'accordo? D'accordo, arrivederci. Grazie, buona giornata. Ho calcolato col pallottoliere tutte le ansie che in un giorno. Entro subito, non sentiamo questa bellissima canzone, volevo rispondere ad un ascoltatore, Paolo, che ci dice: sei stata troppo tenera con Giunta, la gente soffre per queste situazioni. Paolo, più che fargli mettere la faccia su queste situazioni, fargli rispondere in diretta ai vostri casi, non so che cosa fare. Se un'azienda non si rende conto di quello che succede su un territorio, poi ne va anche della sua reputazione. Noi lo denunciamo apertamente, ma non c'è bisogno né di urlare né di prendere a bastonate apertamente una persona. Antonello Giunta conosce perfettamente quello che è successo negli ultimi mesi su Roma, aveva promesso delle cose, delle iniziative sono partite e speriamo che appunto tutte queste problematiche aperte si risolvano al più presto. Poi mi rendo conto appunto che magari vi piace un po' di più la lite e il trattar male gli ospiti nelle trasmissioni, ma per questo avete altri programmi da ascoltare con i quali divertirvi. Dottor Bani, direttore generale di Sorgenia, le faccio sentire un paio di casi che riguardano la sua azienda che abbiamo raccolto a Salvadanaio, poi andiamo al vostro protocollo di autoregolazione, d'accordo? D'accordo. Grazie. Allora sentiamo Fabio da Treviso. Fabio, buongiorno. Buongiorno a lei, complimenti per la trasmissione. Grazie, ci dica. Ma io volevo solo dare la mia testimonianza, così che ho potuto vivere mesi scorsi. Io faccio l'avvocato e è entrato in studio un ragazzo senza appuntamento che si è presentato come un operatore di Sorgenia, il quale mi dice: siamo un operatore nuovo, stiamo raccogliendo informazioni per poter dare un migliore servizio ai clienti, per abbassare le bollette eccetera eccetera, vorrei che mi firmasse un'informativa e mi desse una bolletta delle ultime arrivate di Enel per l'energia eccetera. Io ho detto: guarda, fammi vedere quello che devo firmare. No, guarda, non posso farti vedere, devi firmare qua, lasciami almeno qualche cosa, non firmo contratti senza averli letti. No, guardi, non c'è nessun contratto da firmare, è solo un'informativa nella quale lei mi dà le informazioni sul suo consumo eccetera, e poi noi la ricontattiamo per darle. Io guarda, poi alla fine, dopo 5 minuti, ho cominciato a dire: guardi, io sono un avvocato e consiglio ai clienti di non firmare nulla se non e quindi figuriamoci se ci casco io. Questo ragazzo però era talmente in buona fede, giovane, 22-23 anni, ma era in buona fede secondo me. Quindi era stato formato come a dire: guarda che tu fai firmare, ecco. Certo, non c'è disinformazione solo verso il consumatore secondo me, non so adesso, parlo veramente di 3-4 mesi fa, forse anche di più, ma c'è disinformazione forse anche nell'ambito della formazione all'interno di ragazzi che pagati forse, dico io, a provvigione, devono vendere, devono fare numeri. Mm-hmm. E allora vanno dentro e dicono, ecco, alla fine purtroppo è andato via senza lasciarmi niente, quello è il problema. Cioè, il problema ma lei ha firmato Fabio alla fine per accontentarlo? No, non ho firmato, non ho firmato tra l'altro, anche perché nella mia professione io faccio, sono avvocato di provincia, quindi faccio anche così pratiche anche piccole, tra virgolette, anzi forse la maggior parte sono quelle, ho anche clienti che hanno già firmato e che si trovano in imbarazzo, magari perché effettivamente il conto non è più favorevole rispetto a quello che avevano prima o altre cose. Quindi, cioè, Fabio, grazie. Voglio sentire subito Anna Maria da Roma, poi siccome abbiamo 6-7 minuti di tempo li voglio concedere tutti a Riccardo Bani. Anna Maria, velocemente, grazie, buongiorno. Sì, buongiorno, velocemente, solo che per me è un problema con la CEA Blue Energy. Io ho ricevuto, cioè ho saputo senza volere, telefonando a lei per sollecitare le mie bollette, che io ero passata a un altro ente. Dico, ma chi è? È la CEA Blue Energy. Dico, ma guardi che io non ho fatto entrare nessuno. Insomma, io mi sono trovata a chiamare la CEA per chiedere spiegazioni. Pensavo... Detto, no, risulta un contratto. Allora, guardi Anna Maria, mi scusi, la devo interrompere perché avevo una segnalazione che anche lei avesse un caso su Sorgenia. Evidentemente le mie colleghe del centralino, poverine, talmente tempestate di telefono, non hanno ben capito. In ogni caso è un caso di quelli affrontati in precedenza, pur aperto. Anna Maria, se vuole ci scriva, affronteremo il suo in privato. Però, dottor Bani, allora, prima di andare al vostro protocollo di autoregolazione volontaria firmato insieme ad un altro operatore, Edison, voi quello che volete combattere, ed è veramente inedito che una società che cerca nuovi clienti combatte i modi con cui invece poi va sul territorio a cercare questi nuovi clienti, questa me la deve spiegare. Cosa ne pensa del caso di Fabio che ha appena ascoltato? Ma li formate voi direttamente questi operatori che poi appunto mettete in circolazione? Ovviamente no, anzi mi scuso a nome personale e dell'azienda con l'avvocato Fabio di Treviso. Poi magari se avrò modo attraverso di voi di raccogliere più esattamente alcune informazioni, avrò modo di verificare anche con la struttura di vendita che è presente sul territorio. Il protocollo e l'impegno dell'azienda nasce proprio per questa finalità. Ovviamente il fenomeno dei contratti non richiesti, della sbagliata presentazione di una proposta commerciale, della non corretta rappresentazione dell'azienda di cui si presenta una proposta, è un fenomeno che non nasce con l'energia, no? Nasce ancora prima con le telecomunicazioni. Ovviamente questa non è una scusa, ma diciamo a segno positivo dell'energia mi sembra che forse è l'unico settore tra, diciamo, il mondo dei servizi dove sia per volere dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, sia per impegno delle aziende si sta cercando con importanti attività, e poi proverò ad elencarle, di debellare questo fenomeno. Guardi, lei non ci crederà, abbiamo 2 minuti e mezzo di tempo, poi la richiamo in un'altra puntata, dottor Bani, oggi abbiamo perso un po' di tempo. Vada subito al sodo, ci dica come si tutelano i consumatori che non vogliono un contratto nuovo sulla base appunto di questo protocollo. Allora, tutte le cose che dirò sono in aggiunta a quello che è già previsto dalla delibera 153 dell'autorità, ne abbiamo già parlato. Sì. Una prima fase è proprio quella che raccontava l'avvocato Fabio di Treviso, formazione, quindi attività di prevenzione, formazione della struttura di vendita, affiancamento alla struttura di vendita, introdurre nei contratti con le nostre controparti delle misure e delle sanzioni che si applicano nel caso di comportamenti scorretti, e rafforzare gli interventi formativi su tutto quello che è la normativa di settore, il codice di consumo, il codice di condotta commerciale e ovviamente a maggior ragione la delibera 153. E quello che abbiamo fatto in più, penso, in questo caso specifico, perché tutti dicono possono fare formazione, abbiamo condiviso questo, diciamo, protocollo con le associazioni di consumatori, abbiamo istituito un osservatorio con le stesse associazioni di consumatori, 4 rappresentanti delle associazioni di consumatori faranno parte di questo osservatorio, e l'obiettivo è proprio di quello di condividere le linee guida e i criteri comportamentali che abbiamo adottato verso la forza vendita, la verifica che le misure e le sanzioni che abbiamo previsto sono applicate, spero di non applicarne perché significa che l'intervento formativo è sufficiente, verificare le modalità e i programmi formativi, spero anche perché sarebbe un po' come applicare delle sanzioni a se stesse. Esatto, ma perché poi lei diceva perché la dovete combattere? Perché parlava di reputazione, no, prima delle aziende. Sì. Allora, oltre al consumatore finale, il principale soggetto danneggiato è l'azienda. E noi abbiamo fatto questa cosa insieme ad Edison perché siamo, non a caso, 2 nuove aziende che si presentano sul mercato dell'energia, sul mercato libero dell'energia, e vogliamo che questo mercato si affermi in maniera positiva, dando spazio ad aziende che hanno voglia di conquistarsi quote di mercato. Quindi programma formativo condiviso e verificato alla sua applicazione dall'associazione consumatori. E poi l'altro è un impegno, anche questo penso sia nuovo nell'ambito di un accordo tra aziende e associazioni, a indennizzare i consumatori nel momento in cui quello che sta scritto nel protocollo non viene rispettato. Allora facciamo una cosa, dottor Bani, ci riserviamo un'altra puntata con lei e con altri operatori. Intanto, per chi volesse, possono andare naturalmente sul sito di Edison e Sorgenia a verificare quanto contempla questo protocollo di autoregolamentazione volontaria, appunto, e quindi se siete in procinto di sottoscrivere un contratto con loro, sappiate che siete anche protetti da queste norme di autoregolamentazione. Grazie a Riccardo Bani, direttore generale di Sorgenia. Noi di Salvadanaio ritorniamo chiaramente domani, perché domani è venerdì. Buona giornata.